Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, una nuova poesia di Luca Sardo Giambonino dal titolo Combattere. Combattere i problemi miei, esempio prendendo da voi, avi miei, spersi sui campi di battaglia di ogni passata epoca. Prendere voi a spunto, conformarmi al mio ruolo nel mondo, senza più timore né remore. È forse giunto il momento, è forse l'ora che guardando a voi io altrettanto faccia, preparandomi per la battaglia come voi faceste a vostro tempo, o voglia il cielo essermi dei propizi a questa ardua impresa, possa la mano di Giove Padre posarsi sul mio capo e condurmi a lidi più sereni.